cerco dentro un display. Yeah. E non mi va di pensare, forse all'effetto della TV. La notte sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più. Come cerco l'autotune, mi rimane in testa e non mi passa più. Però si vede il mare, non stiamo così male. Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché. Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, che poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica. Mamma mi diceva non ti fare male, esci solo con i criminali. All'inizio sono tutti bravi, alla fine da dimenticare. Sei l'unica, non ci casco più. Voglio una pazza musica, post-sex blues. E non mi va di pensare, forse è l'effetto che mi va su. La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più quelle cose che vuoi tu. Ma che mal di testa, Madonna o Gesù. Però si vede il mare, non siamo così male. Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché. Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, che poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza musica, pazza musica.